Rockwave, l'onda del rock. Minuti, ben trovati, buona serata da Blu Radio Veneto e da Rock Wave, la versione live del mercoledì. Maurizio, la versione quella tradizionale, quella tosta. Sì, quella tosta, quella del mercoledì, sì. Maurizio, chi abbiamo questa sera in studio con noi? Abbiamo Beppe Donadio, direttamente con furore musicale da Brescia e dintorni. Grazie, un grande furore. La parola furore piena di R, la cosa mi rende felicissimo. Non la dirò per adesso. Sei rockettaro in tutti i sensi. Ma certo, rock con la R maiuscola. Benissimo. Sì, Beppe Donadio, cantautore bresciano, che tu ti definisci in questa maniera. Pianista, pianista cantante, pianista cantautore. Cosa vuol dire? Mi sono preso una svergola a un certo punto della mia vita per i pianisti cantanti. Bill Joel? Sì, esattamente. Perché siccome la musica classica imponeva di ripetere una partitura scritta ed era insomma abbastanza pesante psicologicamente, in realtà io non sono mai stato un pianista classico come voleva la nonna. E quindi, scoperti i pianisti cantanti, ho capito che c'era una via di uscita, nel senso si poteva essere anche un pianista che si accompagna e che quindi regge la canzone con quello che sa fare. Certo. Quindi, dimmi. No, voglio dire, poi insomma, questa gente qui lo faceva molto bene ed erano anche grandi pianisti, tra le altre cose. Esattamente. Insomma, sono grandi pianisti. Sono ancora grandi pianisti, anche se Bill Joel è un po' di tempo che non viene fuori, ma lui è un grosso pianista, è sempre lui stato. Lui ha deciso che l'unico che può scrivere canzoni è Bob Dylan e quindi non dico rinnegato quello che ha scritto, ma dice di essersi reso conto che non è... insomma, che Dylan è inarrivabile, o meglio, lui è l'unico che può scrivere dei testi. Certo. Tutti gli altri un po'... Sì, forse un po' assolutistica come cosa. Io un altro disco di Billy Joel me lo andrei a comprare. Secondo me sì, sono perfettamente d'accordo con te. Noi della redazione qui di Rock Wave, compreso il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che stasera ti ha voluto fortissimamente qua, lo salutiamo. E siamo molto amanti di Randy Newman, altro pianista straordinario. Quello lì, questo è un altro di quelli tosti. Quelli tosti, sì. Quelli tosti. E di quelli che non te la mandano a dire. No, assolutamente. Ecco. Per cui, ecco, quello è un genere di pianoforte del quale mi sono innamorato a un certo punto. Forse perché anche prevede anche la percussione, sì, il esatto. pestaggio della tastiera, che nella musica classica è assolutamente vietato. È vero. E contempla anche una posizione non ortodossa del polso. E quindi si può dire vaffanculo. Sì, ecco, quella cosa là, esattamente. Ecco, esattamente, quella cosa là. Perché lui, Randy, ha sempre fatto quelle cose là, cioè non è stato mai catalogato in una certa maniera. Era Randy Newman e basta, è poco da fare. Sì. Ritorniamo a Beppe, praticamente. Sì. I primi due album sono due album dedicate a una certa cosa, dedicato a questa figura di cantautore che non riesce mai a trovare un contratto. Guarda, sì, è vero, Beppe D nasce da un'esigenza mia. Una volta registrato il primo album avevo una paranoia che il mio reale cognome non fosse moderno. E allora ho detto come posso essere moderno e interessare ai giovani? E invece suona bene, secondo me. E invece poi abbiamo scoperto che insomma qualcosa fa. E allora ho detto, potrei mettere sul CD Beppe D, che faceva molto, non so, Sheila E, oppure... Sì, all'epoca andava bene quel tipo là, eccetera. E niente, insomma, per cui ho dato il nome all'alter ego, che è quello che per anni ha tentato di scrivere per sé, per altri, ed è andato a fare ascoltare le proprie cose, non so, da una casa discografica, dei produttori locali, quelli che sembra che abbiano il potere su tutto, in realtà non ce l'hanno, insomma varie persone, ecco. E allora, siccome è una vicenda interessante, poi l'ho vista raccontare bene anche a Cristicchi, in realtà ho pensato di metterla in musica, o meglio di utilizzare questo questa storia come filo conduttore del primo CD. e già che c'ero ne ho fatto un altro. Udinì il secondo. Udinì, esatto. Esattamente. Quindi, ho raccontato il seguito. Quindi due album sono collegati a questo filone, però io ho letto da qualche parte che anche il terzo filone cioè, volevi ancora continuare questo discorso, però ti sei fermato. Perché ti sei fermato? Tu sei preparatissimo, cosa che sono non informato, abituale. Mi sono informato. Nel senso che di solito si parte con come mai hai fatto un disco e quali sono i progetti per il futuro. Di solito queste sono le due. Ma noi non a Rock voi Way. Siete un altro. Non a Rock Way, è vero Sergio? Ovviamente. Ovviamente. Sì, in realtà una terza puntata c'era e non era una terza puntata arrabbiata, perché qualcuno ha inteso i primi due dischi come un affronto o una critica al sistema. In realtà io ho riso sopra sulle mie disgrazie, che credo che sia un'azione che aiuti a tenersi giovani, ecco, certo. Quindi a non prendersi mai sul serio, soprattutto in un campo in cui qualcuno così, insomma, è musica e deve restare tale. Comunque, c'era una terza puntata, c'era un'evoluzione della nevrosi di Beppe D del secondo disco. E poi in realtà ho cambiato casa, ecco, quindi sono tornato nella zona della città, in uno dei quartieri limitrofi a quelli dove sono nato e dove ho passato circa 26 anni, e si sono aperte le ante dell'armadio e dentro c'erano i ricordi di un'infanzia e di un'epoca da un certo punto a un certo punto molto felice, assolutamente senza alcun tipo di preoccupazione. E le zone erano quelle e praticamente sono venute alla luce, insomma, no? Come se fossero state di sempre, e sono usciti una serie di ricordi e di vita vissuta, alcuni divertenti, alcuni pericolosi, perché ci... In una di queste canzoni, che è quella cosa che dà il titolo all'album, che si chiama Figurine, c'è riassunto il concetto che poi c'è in un libro che è uscito insieme al CD. E quindi sì, ho scampato una rissa. Ed è stato un ricordo che poi, tornando a Brescia dopo anni, mi è tornato alla mente. Ho visto le strade percorse mentre scappavo. E per fortuna, insomma, la vicenda finisce... a dieto fine, insomma. Certo, certo. Mi salvano prima che mi riempiano di schiaffi e di calci di pugni, perché questi facevano sul serio. Era un po' cattivelli. Sì. Insomma, ti sei fermato e hai detto stop per questo discorso del tuo alter ego e facciamo un disco, non dico lontano totalmente dal tuo alter ego, però che non abbia come punto di riferimento il tuo alter ego. Sì, perché forse... Sai, poi dal 2004, in cui ho cominciato a pensare a merendine, al 2011 di figurine, qualcosa è cambiato nella musica, nel senso, diciamo che anche nel disastro esistono delle... cioè si possono prendere delle distanze dal disastro e dalla deriva. Quindi in ambiti diversi, che ne so, 20 anni fa magari nella ricchezza, se ti andava bene, e nella possibilità di fare 1000 dischi, oggi anche farne uno è un'impresa per la quale devi essere contento, insomma, certo. Perché non sai mai se ne arriverà un altro, non tanto per questioni di sopravvivenza fisica, quanto proprio per questioni di costi. Sì, economici. Ecco, e quindi nel disastro generale si può trovare un proprio posto, una propria collocazione, e godere anche dei piccoli risultati, perché oggi il piccolo risultato è una figata, insomma. Quindi hai trovato Figurine. Cosa dici, Sergio? Cominciamo ad aprire la nostra finestra e sentiamo un pezzo da disco. Ascoltiamo il pezzo che rappresenta il portiere, giusto? Vai. No, perché la copertina rappresenta anche il campo da calcio, la prima traccia, Festa, che è quella che andremo a sentire, appunto, insomma, sempre... Quella del portiere. Quella del portiere. Fermi lì, che andiamo. Rockway, l'onda del rock. Nei messaggi affidati alle bottiglie, non esiste ricevuta di ritorno. Se non vanno a fondo come le biglie, c'è speranza che arrivino un giorno. Ma nessuno oggi scrive più niente, preoccupato che qualcuno si offende. Si può morire da cretino o da saggio, si può morire pure per un parcheggio. Che peggio. La nostra intesa è costruita sulla roccia, ci vuole altro che una palla di cannone. E ai nostri figli ci ha pensato già Moccia, quindi scusa non ti chiamo amore. E se qualcuno deve dire qualcosa, lo dica adesso pure taccia per sempre. E poi divisi come Adi e Duster, a farci le scarpe per l'eternità. Festa, che splendida festa. Festa, che splendida festa. Ci governano gli amici trasparenti, che ci parlano e ci mostrano i denti. Loro sanno cosa è bene o male, sanno tutto sull'evoluzione. L'evoluzione non è più di moda, la scienza lusso poi non ha una prova. E siamo nati dalla plastilina, nati dai vasi come in Ghost. Festa, che splendida festa. Festa, che splendida festa. Che bella festa, che splendida festa. Tutti fanno per noi, fanno per noi. Sabato è festa, domenica è festa. Non è mai lunedì, mai lunedì. Meglio vivere un giorno da ignorante, che una settimana da perplesso. Tutti pronti con la soluzione, non mi serve grazie, fa lo stesso. Si può morire per la religione, che per un ateo sarebbe una beffa. E siamo fermi su questioni di razza, e poi dice che uno sa. Festa, che splendida festa. Festa, che splendida festa. Finisce qui la mia canzone qualunquista, e adesso ritorniamo tutti quanti in pista. Vi chiedo scusa, era la solita minestra. Vi chiedo scusa con la voce e con l'orchestra. Un signore entra in un caffè, un bambino entra in una scuola. E tutti amici come Adi e Dassler, a farci le scarpe per l'eternità. Festa, che splendida festa. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'unica trasmissione che ha due sigle. Esatto. Due basi, due sigle. Io alterno. Vabbè, Beppe Donadio con Festa, la prima traccia del suo disco, che insomma stiamo così imparando ad ascoltare e a conoscere anche tutti insieme. Maurizio. Musicalmente, Beppe, questo pezzo è piuttosto mosso, movimentato, un sacco di ecco. Ha un sacco di variazioni del tempo. Come mai l'hai costruito musicalmente così? Gli altri sono leggermente diversi, secondo me. Questo qui è una sorta di, come dire, cliché, forse un pattern pianistico. Ah, cioè, in soldoni cosa vuol dire? Sì, è un modo di accompagnarsi. Ho capito. Tipico da pianista cantante. È un tempo Motown. Ah, ecco. Ok, quindi un po' soul. Ecco, esatto. Un po' black. Però qualcosina senza di black. Ste voci super tecniche, nel senso non è che posso mettermi a fare i numeri. Ed è un modo, insomma, di tenere il tempo, questa sinistra che pesta costantemente su un'ottava e la destra che si muove. È una cosina così, è una tipologia di accompagnamento da rocchettaro. Esattamente. E i concerti apri con questo pezzo? No. Qui con questo di solito chiudo. Questo pezzo ha una sua storia molto particolare, nel senso che nella sera di esordio, il 16 giugno, data di presentazione dell'album, è andato tutto molto bene per i primi tre pezzi. Sì. Eravamo proprio molto. Abbiamo capito al terzo pezzo che eravamo affiatato. La grinta giusta, il feeling giusto. Esatto, e quindi poi al secondo minuto di questo di festa si è scatenato il diluvio, che poi ha smesso dopo 7-8 minuti, per cui poi abbiamo ripreso, abbiamo suonato. E, per cui ce la ricordiamo questa cosa come una sorta di... così la fine del sogno, nel senso abbiamo temuto per un attimo che la presentazione del disco se ne andasse a quel paese definitivamente. Posso chiederti una cosa? Sì. Mi mente questo episodio. Quando un musicista comincia a suonare e viene sul diluvio, tecnicamente poi come riprende dal punto di vista anche emotivo? Come riprende? Ha difficoltà a riprendere sul solco già intraspreso prima oppure va avanti lo stesso? Sì, sono dinamiche particolari. Se il concerto è iniziato molto bene come quello del 16 giugno, poi ti servono un altro paio di pezzi per riprenderti in barca, insomma, devo dirti che sì, ogni situazione, ogni concerto c'ha una sua vita a sé. Una pioggia che ti interrompe, non so, mi viene in mente tennis perché mi piace, mi vengono in mente le partite che stanno andando in un certo senso, arriva la pioggia e poi finiscono in un'altra, no? E, insomma, stare davanti al palco seduto al piano e cantare anche non da solo comunque è un'esperienza anche personale, come quella di un incontro di tennis dove è assolutamente personale, per cui presumo che certi saliscendi, certi umori che si ricreano o che non si ricreano siano abbastanza simili. E gli umori erano molto positivi in Canton Ticino, vero Beppe? Gli umori sì, in Canton Ticino sì. Anche qua chiaramente, però in Canton Ticino un pochettino di più. Perché Beppe? Io coltivo una mia oasi di felice, di popolarità, la chiamo popolarità, cioè nel senso è piacevole il fatto di avere delle canzoni che passano. Ti dico quotidianamente, sì, forse no. Saltiamo un paio di giorni, non è che sto là a fare il conto, no. Però ogni tanto, siccome c'è un sito molto bello che si chiama www.airplay.ch, che è il sito della libertà, io lo chiamo, cioè tu inserisci il tuo nome e ci sono tutte le emittenti radiofoniche della Svizzera, quindi comprese quelle francesi, e lingua francese e lingua tedesca, e per cui tu sai dove sei stato, quante volte ti hanno passato, chi ti ha passato, che credo che sia assolutamente democratico e ti permette anche poi di capire se la SIAE ti paga quello che deve pagare, oppure cosa no. Che è sempre successa, non vorrei inimicarmi nessuno, saluto la SIAE nel suo, anche il direttore se mi ascolta in questo momento è anche qui vicino. Ecco, perfetto. Sì. No, trovo che sia una bella cosa. Qui non credo che ci sia un sito dove Sergio, tu sai che c'è un sito di questo genere, che... c'è il Music Control, ma credo che abbiano accesso soltanto gli editori, insomma chi opera nel diverso, settore. Sì. E quindi pirateria.it, no, niente. Quello no. No, insomma, e allora lì così mi sono reso conto che le canzoni andavano. Dal 2006 in poi ci sono stati dei periodi di cosiddetta alta rotazione, per cui per 3 mesi di fila la mia canzone si è ascoltata e ti dicevo dei piccoli successi, certo. Non sono diventato milionario, ma quello per me è un grande successo, no? Chiaro. Puoi metterlo dentro una scatola dei grandi successi, dipende da dove lo guardi, certo. Per cui sì, il meccanismo è leggermente diverso e la Radio Nazionale ha una grande libertà di programmazione, per cui insieme alle hit ci sono anche brani di outsider oppure di gente che si fa una carriera col tempo e non è assolutamente preclusa nessuna via, lo dico, insomma, sono felice di dirlo, di rendere una testimonianza reale, nel senso che è possibile. Ecco. Certo. Beppe, suoniamo che cominciamo questa carrellata fino a mezzanotte. Sì. Quando volete, quando sì. Vuoi. Eccolo qua. Allora, siccome abbiamo parlato di dischi e di musica, e siamo anche andati in... C'è il libro, ragazzi, qui c'è il libro, come sempre, giusto, come musicista c'è il suo libro. Sì, c'è il libro perché io ricordo le canzoni a memoria di Elton John, ma non ricordo le mie. Beh. Questo si deve sapere. Perfetto. Perché le mie non le ho imparate quando avevo 14 anni, questa è la differenza. Le ho scritte quando ne avevo almeno 28. e quindi già la materia cerebrale era diversa. Ti dicevamo della musica, sì. Io sono parte di quello che sto facendo, lo faccio anche perché sono un appassionato di dischi, sono stato un collezionista, ho... Quanti vinili hai a casa? Dobbiamo non dire ne ho nuove. Tantissimi, no? Perché sono uno di quei deficienti che è andato a venderli per comprarsi i CD per poi ricomprarli dopo, no? Sai, questa follia della tecnologia dove poi capisci che hai fatto una cazzata, una sfidata. Allora io ho pensato di farti sentire questa canzone che si chiama Le ultime parole famose, sta sul secondo CD, si chiama Houdini. Certo. E parla di un tizio che si chiama Sergio, che di cognome fa Mancinelli, che sempre in una dimensione di grande libertà musicale, una sera mi chiamò dal nulla, tipo una telefonata dall'iperspazio, e disse: io sono Sergio Mancinelli, e bene, io stavo rispondendo, sì, io sono Sofia Loren. In realtà lui aveva ricevuto un CD e gli era piaciuto un pezzo, lo mandava, lo stava per mandare su Radio Capital, ma mi ha anche chiesto se poteva mandarlo, con domanda. Io a distanza di qualche anno, insomma, ho tentato di mettere in musica la sua attenzione per la musica suonata e per quell'area protetta che era la sua trasmissione, che magari un giorno torna. Sì, dopo non c'è più, mi pare... È stata chiusa. È stata chiusa, esatto. Insomma, sì. Perché lui è un DJ che aveva partecipato a numerose trasmissioni anche importanti di certa cultura, radiofonica, sì. In Rai, chiaramente. Sì, aveva questa sua, anche qui, osi felice di musica, dove andava a pescare cose nella storia del rock, ma non solo. Ed è una trasmissione seguitissima, per scelte commerciali è stata chiusa e spero che un domani si possa riaprire in qualche altra parte. C'era una volta la sala concerti e concorsi per rock and roll band. Autori messe come sale prove e pomeriggi consumati in tre a suonare. C'era una volta un negozio di dischi da cui facevamo download delle idee dei dannati poeti, quelli dell'inganno del rock. Si suonava qualunque cosa perché la musica andava di moda. Adesso sopra gli stessi palchi ballano donne con gli occhi da ski. Siamo cresciuti a panini e canzoni con l'idea che bastasse Live Aid a lenire le piaghe dell'Africa dentro al grande inganno del rock. Erano le ultime parole famose, quelle che dovevano cambiarci la vita. Nonostante tutto, credo ancora nelle canzoni come rimedio per non farla finita. E quando Sergio mi parla di notte come lupo solitario, mi protegge la musica. C'era una volta Marcello e un paio di casse da 100 watt. La strada fatta insieme, le nebbie padane e un vecchio furgone targato me. Marcello adesso fa i matrimoni perché la musica gli chiede di replicare in eterno Io vagabondo e lasciare le cose così. Erano le ultime parole famose, quelle che dovevano cambiarci la vita. Nonostante tutto, credo ancora nelle canzoni come rimedio per non farla finita. E quando Sergio mi parla di notte come lupo solitario, mi protegge la musica. A tutti quelli che cantano e fanno sogni da superstar, a tutti quelli che contano su questa musica fai da te, a tutti quelli che ce l'hanno fatta, come quel tizio del mio liceo, che una sera l'ho visto a Sanremo e poi l'ha vinto, beato lui. Erano le ultime parole famose, quelle che dovevano cambiarci la vita. Nonostante tutto canto ancora le mie canzoni, recentemente per ragione di vita. Ci fosse in mezzo a questo mezzo miliardo di persone uno che crede che non sia finita, e che il mestiere di cantare le storie sia professione riconosciuta. E quando Sergio mi parla di notte come lupo solitario, mi protegge la musica. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Mario, no, ma Sergio. Sergio. Riesco a avere un po' più di piano? O è quello sì, che esce? Sì. Dopo proviamo. No, va bene uguale, nel senso tiro lo stesso, non ti preoccupare. Se è quello che se è il generale va bene così, la tieni così. Dopo proviamo a fare vedere, vai, fare brigare. Comunque 22:37 stiamo conoscendo. Che succede? Esatto. Bonnie parla senza il permesso. Perfetto. Ok. Il pezzo era molto bello, Sergio, hai sentito. Sì, dicevo, stiamo conoscendo Beppe Donadio su Blu Radio Veneto all'interno di Rock Wave Live del mercoledì. Maurizio. Sì, il testo era molto bello perché mi ricordava la radio come si faceva una volta. Sergio Mancinelli faceva quel programma Aria Protetta che scandagliava nel rock. A proposito di rock, tu con un certo professor Luigi hai visto gli Ultravox molti anni fa. Dove hai letto questo? Io ho letto tu. Adesso mi dici come mai hai visto gli Ultravox all'epoca. Sì. Gli Ultravox di che periodo? Allora, sono stato nell'84 al Palatrossardi. Si parla di Vienna? Forse? Si parla di Vienna. Ah, che bello il disco, via. Ti ricordi gli Ultravox di Vienna? Sì. Cioè, era meraviglioso quel disco là. Sì, io avendo 43 anni in questo sei momento. Sei giovane, preciso, molto giovane rispetto a me. Sì, però ho avuto, credo, la fortuna di vivere comunque una parte di quel tipo di musica, così, io la chiamo sperimentale, perché anche se era musica leggera, comunque, siccome ognuno faceva delle cose diverse. Certo. E quindi potrebbe tranquillamente essere il progressive. Ma di Vienna era un disco strepitoso. Sì. Aveva lasciato il solco, secondo me. E io non sapevo nulla, cioè non sapevo nemmeno come cosa fosse un concerto dal vivo, te lo dico sinceramente, nel senso che fino ai primi anni 80 la mia cultura musicale spaziava, è arrivata anche a Ivan Cattaneo, insomma, ascoltavo tante cose diverse. Certo, ecco. Certo, come no. Però il rock, quello insomma, suonato, tutto rispetto per Ivan Cattaneo, il rock suonato non l'avevo mai visto, né sentito né visto, o meglio, se metti insieme le cose nasce questa cosa del concerto che per me era qualcosa di completamente nuovo. Avevo visto i Rockets, quelli vestiti d'argento, che comunque era sui generi, cioè era rock spettacolo, ecco. Anche se i Rockets suonavano molto bene. Suonavano da dire. Molto, molto bene. Qua oggi abbiamo avuto un esponente di Rockets. Qui? Sì, esattamente. Fabrice Quagliotti? No. No. Comunque, insomma, va bene. Sì. Uno dei leader dei Rockets è venuto qua qualche anno fa. Ecco, questa cosa. Il suo disco solista. Ecco, avevo voluto esserci. Little Gera, ecco, il nostro direttore artistico mi ha dato l'input giusto. Little Gera è venuto qua e qua ha parlato dei Rockets come da leader della band. Tu non sai che io adesso sto male questo perché pensiero. Perché male? Sì, perché se lo sapevo venivo. Beh, dunque, sei stato folgorato dal professor Luigi a vedere gli Ultravox. Ho visto gli Ultravox, ma non tanto perché Ultravox, no, per quanto bello fosse, perché era un concerto dal vivo, perché c'era un palco gigantesco che era stato girato dalla parte delle tribune perché non avevano venduto tanti biglietti. E il professor Luigi mi disse che erano stati, era, di solito il concerto si svolgeva dall'altra parte. Certo. Però è stata un'esperienza e devo dirti che musicalmente invece il concerto dopo dell'85 di Eric Clapton sempre al Palatus Sardi, il tour era quello di Behind the Sun, disco molto bello. E lì ho capito un paio di cose che mi ero perso nell'epoca in cui ascoltavo le altre cose che ti ho detto prima. Sì, lui ha avuto una certa importanza, credo che abbia capito, non so come avesse capito, però aveva capito che avevo bisogno di musica. Sapeva che suonavo, ma sapeva anche che appunto suonavo degli spartiti ben precisi. Devo dire che è stata un'apertura, è stata una bella particolare. Apertura, è stato molto bravo professore, assolutamente. Professor Luigi, sì, non sono, devo dargli una copia di un disco, nel senso per dimostrargli che insomma qualcosa viene anche da quella serata. Poi siamo andati a vedere degli altri, siamo andati a vedere i Genesis nell'86 e il professor Luigi aveva questa particolarità che si portava un registratore di quelli a cassetta, sì, che però era un cesso, sì, la qualità non era la qualità. Allora poi cosa faceva? Alla fine del concerto lo metteva in macchina e facevamo il viaggio di ritorno, certo, col concerto, che era una tortura perché era di una qualità ignobile. Si intuivano le canzoni, però si intuiva, però era come vivere un momento di, insomma, certo, di quello che più che altro, diciamo che la cassetta non serviva a lui quanto serviva alla prof di matematica per stare sveglia, perché aveva dei colpi di sonno. Quando era lei a guidare sulla Citroen Visa, il problema era grosso, bisogna tenerla sveglia. Ah, perfetto. Però è stato molto positivo, dagli Ultravox come episodio, cioè il momento del concerto, e sei diventato anche musicista anche per quello, probabilmente. Sì. Non ti so spiegare che cosa abbia visto quella sera, nel senso che per me Clapton era un chitarrista qualsiasi, nel senso non lo conoscevo. Sì. Però tutto quello che stava intorno, no? Non tanto il fumo che saliva, perché Clapton è sempre stato identificato come, no? ancora veniva dal periodo degli spinelloni. Sì, un po' lisergico, leggermente. Ecco, ma in realtà superata la vampata di fumo che saliva, e arrivava la musica subito dopo. Slow end in ogni caso. Bello, bellissimo. Bellissimo. Poi chiaramente c'è stata un'evoluzione e siamo arrivati, abbiamo parlato all'inizio di questo terzo disco, molto interessante, questi 11 momenti, come giustamente ha detto Sergio, prima il portiere e tutti gli altri. L'illustrazione è molto bella. Sì. Perché questa illustrazione è così bella, così delicata e anche nello stesso tempo carina al 100%. Sì, devo dire ci sono anche la scelta della copertina fa parte di un percorso di recupero della ricerca del tempo perduto, e mi ricordo che siccome l'epoca va più o meno dal 78 all'82, quella di quella zona della città, mi ricordo che nel 1982 la Gazzetta dello Sport pubblicò un inserto con tutte le squadre dei mondiali e la copertina era affidata a Mordiglio, che era, certo, in quel momento fu probabilmente il disegnatore più conosciuto, non che più non in lo auge, sia adesso, sì, o comunque, esatto, più in auge. E allora c'era questa copertina che è questo campo dall'alto, visto dall'alto, con un toro che entra e i giocatori spaventati dal toro sono tutti dietro alla porta. Questa immagine ha una tensione particolarissima e in qualche modo non so, mi sembrava, oltre che un ricordo mio personale, anche un po' una sintesi dei tempi, adesso senza andare a fare discorsi troppo importanti che non so fare, però insomma tutti quanti dietro la porta a difendersi, già la situazione è assurda, cioè difendersi dietro una porta perforata già di suo, e questo toro che è assolutamente si legge negli occhi del toro che non è un toro che è lì per scodinzolare, ma è lì per caricare, per attaccare chiaramente. Ma la grande forza di questa immagine è che c'è una prospettiva in questo disegno del campo di calcio che io all'epoca provavo a riprodurre, no? Tentando di fare il fumettista, cosa che non mi è uscita granché bene. Però quel disegno aveva una tale forza e una tale, c'era questo punto di vista che era a mo' di telecamera, assolutamente televisivo. Sto giusto vedendo la tua copertina. E allora ho fatto quello che così ho lanciato una ho fatto un message in a bottle e ho scritto una mail all'editore di Mordiglio, certo, chiedendo il permesso di utilizzare questa immagine. E mi hanno detto ci faccia avere la canzone e ci spieghi di cosa si tratta. Allora il signor Guglielmo Mordiglio ha ascoltato la canzone, gli è piaciuta e ha dato un ok di massima agli editori. E, l'editore poi si è preoccupato che ci fossero i credits e tutte queste cose qua. Io ho sbagliato un paio di credits, mi hanno chiamato e mi hanno detto: guardi, siccome lei è un privilegiato, perché siccome a Mordiglio piace la canzone, lo facciamo fuori la casa, perché se no dovevamo farle ristampare mille copie. Però siccome a lui piace ed è molto felice, ecco, infatti come un trofeo ho l'autografo di Mordiglio. Lo dico a tutti gli ascoltatori, io ho l'autografo di Mordiglio. Bellissimo, che fa un po' anni 70 sta cosa che Mordiglio, sì, eccezionale, sì, è veramente così. Poi una persona carina, ha scritto due righe, mi ha mandato un suo libro, ne vado fiero. Insomma. Tu hai detto che hai mandato l'autorizzazione, anche un certo De André, Fabrizio, ha chiesto agli avvocati di Dila se poteva utilizzare un pezzo di Dila, e dopo un'attesa di un certo periodo, Dila, i suoi avvocati, ha detto sì, e allora ha utilizzato Blessed Durango di Dila. Ecco, vedi. Anche tu sei stato un privilegiato. Io sono illuminato dal mondo dei fumetti, mi hanno concesso questa immagine. No, è così, è una bella immagine, poi ti ripeto, ha una sua forza così visiva. Ce ne sono tante legate al calcio di Mordiglio, ci sono dei globi terrestri col campo, che una porta sta sotto, una volta sta sopra, e ci sono delle cose legate al golf e anche al tennis. Assolutamente geniale, cioè rivoluzionario nel modo in cui ha riproposto lo sport. Cosa vuoi, suonare o sentire un altro pezzo del disco, Beppe? Ma non so, vuoi mettere un altro mettiamo Nino? Un altro la 2, Figurine. Dai, sì. Bella facciamo figurina. Il terzino, dai. Questo è il terzino. Questo è il terzino. È il terzino, sì, terzino. Oh, sto guardando, è vero. andiamo. Figurine con Beppe Donadio. Rockway, l'onda del rock. Fallo di Rummenigge, fuori ali, battuta la punizione, il cross di Cattine. Apre quando serve capire dove andiamo. Le lettere d'amore, le facce degli amici, gli album delle figurine. E sognavamo in grande, convinti di volare, che non saremmo mai cresciuti, o almeno molto tardi, e mai nessun dolore. Dietro ad un pallone, nascosti in un cortile, ricordi quella volta ci volevano menare. Credevo di sapere come difendere un amico da bande di quartiere, e invece ci han seguito. Ma Rosa dal balcone ha detto di lasciarci andare, e sono tutto intero. Ma non ho mai imparato quando è il caso di tacere. Piccole cose, tutte le piccole cose che ci hanno fatto cambiare, nel bene e nel male. Segnava con 11 cucito, io colla sulla schiena. Noi segnavamo il campo con linee immaginarie, borse della scuola e appunti sopra il banco, difficili da cancellare, oggi con un cellulare ci stanno i libri dentro e giornalini con le donne messi sotto il letto insieme a piccole cose, tutte le piccole cose che ci hanno fatto cambiare nel bene e nel male. Ci bastava prenderci la mano, oggi sembra strano, non butto quasi niente, conservo ancora Superman, tutti i suoi colleghi, le foto degli amici, gli album di fotografie, lettere segreti. Tra le figurine c'è quella di mio nonno che mi ha spiegato il calcio. Diceva il gioco più bello e crederci costava poco. In fondo è stato bello nelle piccole cose, tutte le piccole cose che ci hanno fatto cambiare. Crescere e andare, piccole cose, tutte le piccole cose che abbiamo fatto per amore ed un mondiale con te. Rockwave, l'onda del rock. Abbiamo sentito Figurine, la traccia numero 2 del disco Figurine di Beppe Donadio, che è in studio qui con noi. Maurizio. Sì, un pezzo questo, come abbiamo detto, stavamo parlando con Beppe a microfono spento, un pezzo pop, una ballata pop, una canzone accattivante che prendi immediatamente. Non movimentata, ma registrata in una maniera particolare, molto di qualità, anche dal punto di vista compositivo. Io l'ho sentita pulita, esattamente, una canzone pulita, pulita. Sì, credo che il pop adesso sia un attimino sinonimo di fin troppa leggerezza, no? Però la connotazione fino a qualche tempo fa era di sì, leggerezza, però con un minimo di testa, certo. Si possono fare delle cose, poi in realtà è una definizione limitativa oggi che si suona un po' di tutto e si mettono insieme generi diversi. A me il pop è sembrato sempre molto vario, Joe Jackson ha fatto del pop assolutamente sublime, ecco. Ci sono tanti esempi di pop bello. Mi spiace che la connotazione pop adesso sia leggermente... con questo marchio di commerciale. Sì, esatto. Anche se non è assolutamente vero. Diceva, me l'ha detto un ragazzo che è venuto qua a suonare qualche settimana fa, forse la scorsa settimana, parlava di Pete Townshend, sì. E lui diceva che se prendi una canzone, la prendi con la chitarra e la cominci, o col piano, e la cominci a suonare delicatamente, se è una canzone semplice ma piace immediatamente, vuol dire che quella sarà una grande canzone. Bellissimo. L'ha detto Pete Townshend, uno che chiaramente qualche pezzo ha scritto. Un paio di album anche incredibili. Numeri due. Esattamente. E così, cioè, se funziona bene già all'inizio, come questa funzionava bene all'inizio, vuol dire che prende immediatamente, vuol dire che è fatta bene. Sì, esatto. E non è, il fatto che prenda non è sinonimo di stupidità. No, assolutamente no. Non ha, assolutamente, io penso... modo totalmente diverso. Ok, Beppe, 22:54, abbiamo ancora tempo fino a mezzanotte, però l'importanza di avere Beppe qua dentro da noi è di suonare. Cosa, Beppe? Allora, ti faccio sentire una canzone che è in figurine. Non mi ricordo che omino sia, però dovrebbe essere l'ala sinistra. La numero 7 come si chiama? Soldato F? Sì, sì, soldato F. Allora, l'ala sinistra di figurine. Adesso la spieghi perché è molto importante Soldato F. Soldato F è una canzone di qualche anno fa. Sono tutte di quest'anno. Questa viene un po' più da lontano. C'è stato quel caso legato all'uranio impoverito, certo. I soldati che sono tornati e si sono ammalati. E in qualche modo è una canzone sulla guerra. Ci sono dei temi abbastanza intoccabili per i quali si cade molto spesso nella retorica. Non so, parlo di infanzia. Di la guerra è uno di quelli, è uno dei temi che vanno trattati abbastanza con attenzione perché è un attimo a caderci nel retorico. Ho tentato di fare un testo che non lo fosse, che fosse un testo legato agli uomini e non tanto alla guerra, ed è la storia di uno di questi, credo che si chiami Francesco, io lo ricordo, sì. Non ricordo il cognome, ma vidi un'intervista in televisione, lui raccontava che qualcosa stava succedendo, che qualcosa era successo, insomma, di ritorno da questa missione, e ho provato a metterla in canzone, si chiama Soldato F. Il soldato Francesco ha i minuti contati, un manipolo di medici che guardano giù, cicatrici nelle mani, lunghe come le frontiere che dividono montagne, il nord ed il sud. Sono stato lungo il fronte a schivare le schegge, a giocarmi la vita come pecora nel gregge. Lui respira un'altra aria che fa male e distrugge, invisibile nemico che torna a distanza di anni e con pazienza lo lavora lungo i fianchi e gli sbriciola le forze come il fumo passivo. E per loro in mezzo ai campi non ci sono mai stato, dovrei essere contento che sono io quello vivo. Guerra è guerra, non è un viaggio premio che l'ho scelta io e mi perdono. Il mio nome è nessuno, ma si ricorda qualcuno di me. Il mio nome è nessuno, ma nessuno mi spiega perché. Navigato i cieli e i grandi mari, e ho regalato la speranza in mezzo agli spari. Adesso sai, mi resta poco e niente, meglio avere un salvagente che tra poco pioverà. Il soldato Francesco è tornato dai Balcani con un nemico invisibile. Italiani, le statistiche sono numeri ed i numeri dicono sempre la verità, qualunque sia stata. Tanto è stupida la guerra quanto è inutile versare un bicchiere di vino a un astemio. La mia guerra di bambino su di un vecchio tappeto è così diversa da quella. Il mio nome è nessuno, ma si ricorda qualcuno di me. Indifeso, insicuro, può spiegarmi qualcuno perché. Navigato i cieli e i grandi mari, e ho regalato la speranza in mezzo agli spari. Adesso sai, mi resta poco e niente, meglio avere un salvagente che tra poco pioverà. il soldato Francesco se n'è andato di mattina con un vuoto nel petto dovuto a quel vento che gelido soffiava sui monti dei Balcani. Il soldato Francesco mi ha stretto le mani. L'onda del rock. Maurizio, eccoci qua. La canzone ci parlava di una sindrome, era la sindrome dei Balcani. Esattamente. Uranio impoverito o una dose di vaccino non propriamente giusta, convenzionale. Vero, credo che non sia mai stato ufficialmente definito quale fosse la causa. Sì. Purtroppo qualche altro soldato è perito. Sono per questo. Sono stati diversi, sì. Esattamente. Un pezzo molto bello, molto sentito. Un critico che Andrea Rossi ha scritto in una recensione che secondo lui questo è il pezzo più bello del disco completo. Belle cose ha scritto Andrea, sì. Sì, ha scritto benissimo e ha dato proprio il segno giusto, ha interpretato proprio il momento giusto di questo pezzo che è significativo. Anche il testo è un testo molto importante. Semplice ma importante che fa capire che cosa vuol dire sindrome di Balcani, questa tragedia. Sì, sì, io non sono un fautore della musica che cambia la storia, insomma, comunque ho pensato, sai, il grande inganno del rock, ti dicevo. Certo. Ho pensato che fosse realmente così, cioè che Live Aid avesse rifornito mezza Africa di... Non è andata così, credo che poi, insomma, la storia ha raccontato più o meno come cosa è successo. Non credo che le canzoni abbiano il potere realmente di smuovere sistemi politici, però hanno una grande funzione che è quella di far riflettere e allora insomma io tendo a realizzare delle canzoni dove ci sia possibilmente un contenuto, un messaggio. Certo, fa riflettere ed emozionare, che è collegato a riflettere secondo me. Meglio ancora se succede. Esattamente. Sì. E, credo in questa funzione più che in cose gigantesche, no? E anche qui la forza delle piccole cose è anche una canzone che abbia un testo che ti porta a qualcosa. Io ho detto più di una volta che credo di aver imparato molto di più con le canzoni che con Alessandro Manzoni, cioè ci sono delle conferma anche Sergio, non tu è che... sì no. Non è che con certi quello... autori sì, con certi autori sì, ecco. Per cui ecco, credo che ci siano delle versioni moderne di Alessandro Manzoni che andrebbero insegnati a scuola insieme ad Alessandro Manzoni. Tu hai citato De André, e, insomma, ci sono tanti. Tu hai citato i Beatles, non li hai citati qua in questo momento, il microfono spento, li citi sempre, e i Beatles dovrebbero essere insegnati a scuola. I Beatles sono insegnati in tutte le scuole di musica, questo sì. Nelle scuole... Sì, sono un argomento di studio, credo che possano esserlo, sono d'accordo con te. Li ho citati perché alla fine di Merendine c'è una canzone. Sì, esattamente, che non so se farai quel pezzo dal vivo del blues dedicato ai Beatles. Guarda, quasi. Lo facciamo adesso? Ma facciamo adesso. Oppure i 5 dischi. Ah, no, 23. Vedi 3 minuti. Esatto. Tu non sai, Beppe. Dai. Adesso te la spiega. Sì. Dal punto di vista proprio cattedratico, dai. Sergio, come sono questi dischi? Io, sei tu il conduttore. Vabbè, ma puoi spiegare anche a te, dai. Se ci puoi dire i 5 dischi, 5 o 3? 3, facciamo 3, dai. Facciamo 5. Facciamo 5. No, facciamo 3, se poi ne escono altri 2, meglio. Da portare in una ipotetica, insomma, isola deserta. Bella domanda. Mm. Io ho ascoltato molte cose straniere, forse ho ascoltato più musica straniera che italiana. Va benissimo, non c'è problema. Dischi, come dischi intendi long playing, sono contemplati... Album? Gli album. Sono contemplati i Q-disc oppure non ne rientrano? Va bene, mettiamoci gli album. Mettiamoci gli album, dai. Ma sì, caccia dentro anche un Q-disc, va. Ti citerò. Running on Empty di Jackson Brown. Ah, mi devo alzare in piedi allora. Ma anch'io, guarda. Assolutamente, mio fratello Jackson. Incredibile. Allora, cito quello e poi ti cito... Beh, quello te lo cito perché è rivoluzionario dal punto di vista anche del modo di registrazione, no? Ha registrato mezzo in hotel, mezzo sull'autobus, insomma, quando c'è live, live atipico, esatto. Poi dobbiamo ricordare una cosa, puoi ricordare anche te, in Italia è stato lanciato da Carlo Massarini, è stato Carlo Massarini a portare Jackson Browne qui, io l'ho visto all'epoca a Legnago a Verona, ha fatto un concerto strepitoso. Come per i Rockets ti invidio, perché io l'ho visto nel 96 per la prima volta dal vivo, conta che lui tardi. Ha 30-40 anni più di te. Sì, esattamente. Grazie Sergio. Sì, allora quello ce lo mettiamo. Voglio metterci, è difficile, insomma, sono tanti. Cosa ti posso dire? C'è un disco di James Taylor che si chiama JT. Ah, che bello, che bello. Affezionato perché ci facevo gli esami delle medie e mi imparavo a fare i cori. Ah, certo. James Taylor ha questa grande importanza, nel senso che si impara a fare le terze e le quinte. Questo l'ho scoperto anche da amici poi coristi. Ha scritto dei pezzi incredibili. Sì, ha scritto delle cose. Io, dopo aver scritto, io lo conoscevo dei pezzi più importanti. Io sono andato a riscoprire il primo album prodotto dai Beatles, dall'etichetta dei Beatles. Certamente. Che non era mica malvagio. No, era c'era interessante. C'era Caroline on My Mind, c'era credo Blossom. Sì. Un paio di cose. Era un paio di cose interessanti. E così ho riscoperto il James Taylor dell'inizio di carriera. Gran cosa. Sì. E poi sai che ce ne sono davvero tanti. Sì, lo so. Un altro devo sceglierne. Quello che vuoi, Forse non è un caposcuola. Mi è piaciuto Vai in modi Pino Daniele. Ci ho passato un'estate intera. Pino Daniele è un altro di quelli per cui nei dischi c'era il mondo che suonava. Ecco, io adesso mi succede di aspettare dei dischi, per esempio, quando escono quelli di Eros Tavetese. Ecco, di andare al negozio dei dischi e dire, sapendo qual è la data di uscita e aspettandolo. E sono quei dischi in cui c'è tanto lavoro, no? E ti servono 10-20 ascolti per capire quanta arte c'è dentro. Sì, ma coniugava il fior fiore di musicisti napoletani, possiamo dire anche americani, tanti musicisti americani sono passati per Napoli. Vero. Chiaramente. Io ricordo un Sean Phillips, non so se te lo ricordi Sergio, Sean Phillips aveva i capelli lunghi fino a terra, era un chitarrista straordinario, ha fatto due dischi meravigliosi, Second Contribution e Contribution, poi se n'è andato, ma Napoli era il cuore, era il cuore di questa musica innovativa. Se parliamo di Alan Sorrenti, il primo disco di Alan Sorrenti, poi le altre cose le lasciamo perdere, ma il primo disco di Alan Sorrenti era straordinario. Un pezzo da 13 minuti. Era straordinario, cioè io a una certa età, come hai ribadito giustamente Sergio, via. E poi voglio citarti Burattino senza fili di Bennato, perché quello è un modo di scrivere testi che io apprezzo, adoro, insomma. Non so, non c'è ancora stata una rivalutazione nazionale di Bennato. Sai, succede. Anzi, è anche andato piuttosto giù, mi pare. Sì, a parte un singolo quest'estate, La mia città. Credo non sia ancora arrivato il momento della celebrazione, della consacrazione. Quella da vivo, ovviamente. Va a periodi, no? Ci sono dei ritorni di. Mi viene in mente Roberto Vecchioni a Sanremo che torna anche lui, credo, dopo un momento di non troppa notorietà. E io sto sempre aspettando che Bennato abbia il rilancio della carriera, no? Dove È stata tua la colpa diventa una sorta di inno nazionale, insomma, oppure ecco, io quell'album forse però potrei metterci dentro tutti i primi tre, ecco. Parlo di album italiani. Siamo a quattro. Facciamolo un altro, dai. Il quinto, ci metto Galaxy dei Rockets. Giusto. Abbiamo se citato. Se non altro per la copertina, ma anche per il contenuto. Certamente. Adesso facciamo così, Sergio. Non so se sei d'accordo. Facciamo suonare Beppe, perché sono già le 23:08. Vai. Allora, il pezzo dei Beatles nasce alla fine di Merendine con un concetto base. E cioè, perché fare dei dischi quando i Beatles hanno scritto quasi tutto? Sì. Sono io a spegnere la luce, chiuso qui a scrivere poesie. Ho cambiato modo di suonare ed ho cercato di essere migliore. Tanto i dischi sono tutti uguali, tondi circolari, quasi come i giri del blues. Alla radio cantano l'amore, e tutti belli come su Men's Health, regolati dal testosterone ed abbronzati dalla testa ai piedi, e gli inserti su come farlo bene, belli come il sole, vuoti come scatole del tè, senza il tè. Ovviamente Fab Four Blues, che cosa si può fare di più? Fab Four Blues, la logica costante del blues. Fab Four Blues, che cosa si può fare di più? E se ti parlo di passione e dolore, e io ti dico che sono retro, e vuoi soltanto che sia carnevale, vuoi solamente che ti dica le frasi del pop, ovvero io dentro di te e tu dentro di me, è vero che ti amo, è falso che ti ho tradita, scusa devo andare e tu non mi lasciare. Io son fatto per te, tu sei fatta per me, sei la stella più bella che c'è, nel frattempo io canto e non ti basto, tu vuoi soltanto Vasco, balli sopra il mondo e io sono un vagabondo e suono un Fab Four Blues, che cosa si può fare di più? Cantautore, trovati un mestiere, Fab Four Blues, la logica costante del blues è cantare e prendere o lasciare, dopo Paul e John, che cosa si può fare di più? Dopo Ringo e George, che cosa si può fare di più? Stop con i Beatles, stop. Andiamo tutti a fare in blu. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Un vero e proprio bluesone. Esatto, un bel blues dedicato ai Beatles. C'è una particolarità su questo pezzo che tu hai inciso quest'anno, sì, in beneficenza. Con chi? L'ho inciso con il capo assoluto supremo di tutti i Beatlesiani d'Italia, cioè Rolando Giambelli, che saluto, che è una forza della natura. Un uomo che dei Beatles sa tutto, ecco, anche presumo il numero di scarpe, ma quello forse è una stupidata, nel senso, probabilmente molto facile, però sempre colmo di iniziative. L'ultima è stata l'auto di Paul McCartney a Brescia, insomma è stato un momento di grande euforia per i Beatlesiani. Insieme a lui, insieme a Daniele Gozzetti, che è uno dei miei preferiti bresciani, parlo di scrittura, di testi, di completezza insomma, di persona anche. E la terza persona si chiama Betty Vittori, che è una delle voci più belle che io abbia mai ascoltato, ed è anche una delle, insomma, coriste dei dischi, di molti dischi italiani, insomma, da Du Du Du di Donne di Zucchero fino a cose, insomma, di grande livello e spessore. Lei ha avuto una sua carriera solista con i Flying Foxes, e io ho avuto la fortuna di scriverle la biografia. Io mi vendo al mondo come il biografo di Betty Vittori, lei lo sa. E abbiamo insieme a lei, in un pomeriggio dello scorso anno, l'abbiamo ascoltata raccontare la sua vita, che è una vita da musicista in piena regola, di quell'epoca che ogni tanto, insomma, un po' si rimpiange. Io parlo sempre da ascoltatore, perché ovviamente non ho avuto questa fortuna, insomma, di vivere da musicista. E insomma, nel giro di un'ora di racconto ci siamo ritrovati a, insomma, essere molto toccati dalla grandezza, insomma, dalla grande libertà musicale di quel periodo, e anche, insomma, dalle sue grandissime doti di cantante, ma anche di autrice, perché è una grandissima compositrice. Benissimo, quindi questo disco è stato inciso per beneficenza, dobbiamo ricordare. Sì, a favore dell'AIL di Brescia. Esattamente. E, tra altre cose, insomma, abbiamo un'iniziativa di quelle belle, per cui si coprono le spese e quello che viene venduto si gira esattamente così com'è. Quindi sponsor privati, no, diciamo una cosa fatta con cura e con attenzione. Certo, dobbiamo sottolineare che i Beatles d'Italia si identificano tutti nel bresciano, soprattutto a Brescia. Brescia è la città culmine, assolutamente cardine del dei fan dei Beatles. E tutti gli anni c'è il famoso Beatles Day. Esattamente, che è importantissimo. Che adesso è stato esportato anche nella Svizzera. È vero. C'è una a distanza di pochi giorni. E, Eccolo qua. Voi non vedete, ma c'è una copia. Una copia, me l'hanno gentilmente portata adesso. La nostra manager ce l'ha portata. La nostra manager Maria, che io saluto. Esattamente, ecco, salutiamo. Ma che lei non vuole parlare, quindi rispettiamo la sua volontà. In era di pubblicità personale, Maria rappresenta un'eccezione. Benissimo, allora a proposito di eccezioni dobbiamo parlare anche della etichetta autoprodotta al 100%, parliamo di questa tua etichetta. L'autoproduzione musicale è il futuro della musica. Certo. Ci sono, sì, ogni tanto se ne parla di questo aspetto, e cioè autoproduzione ha degli svantaggi, nel senso che non puoi disporre di grandi forze economiche, o comunque non puoi agire dal punto di vista promozionale in modo capillare, però ha una grande forza, cioè la libertà di azione. Hai un controllo totale sul tuo prodotto, perché sei tu e lo controlli. Certo, magari ci vuole anche un minimo di criterio, di esperienza, forse, ecco, autogestirsi a 17-18 anni con una band di coetanei non è semplice, esatto. Anche perché la prima cosa che ti chiedono è mollami le edizioni, e quindi tu non sei più proprietario di un tubo. Quindi autogestirsi a 38-40 anni è diverso, magari conosci qualche meccanismo in più della macchina. Ripeto, il grande vantaggio è poter definire i propri tempi, i tempi di uscita dei tuoi prodotti, perché l'altro rischio che spesso si corre è quello di produrre qualcosa e di vederlo cristallizzato nel tempo e nel luogo, che il luogo è la casa discografica grossa. Ci sono tante esperienze che, insomma, ho sentito, raccontate da amici musicisti, per cui dischi pronti e mai usciti. E lasciati nel cassetto per anni, sì, capita. Un disco di Betty Vittori del 91 è ancora lì, ed è una sorta di prezioso da questo punto di vista. Uh-huh. Quindi questo è il vantaggio assoluto, e quindi di programmare un po' la propria vita artistica personalmente, scegliendo i collaboratori, scegliendo i luoghi, i posti dove andare a proporre questa musica. Diciamo, io ho scelto di rinunciare a tante date. Le date non sono mai tante, ecco, credo, per nessuno, a meno che vige, non mi viene il verbo, però non è un problema, e a meno che non sia la regola, non sia la gratuità di tutto, che oggi è diventata un po' una forma di lascia passare per tante cose. E quindi ho scelto di suonare poco, e in occasioni dove si possa avere attenzione, dove ci sia una location, ci sia un'attenzione anche da tanti punti di vista, tecnica anche, quindi di riuscita dello spettacolo. È una scelta che forse mi impone di restare in casa musicalmente più di altri, però sai, qui, quando il concerto c'è ed è ben fatto, e lo si suona molto in maniera diversa, il risultato è buono e l'attenzione forse è anche più focalizzata, perché sai, c'è tantissima gente che suona, molta gente più che in passato, e forse suonare ogni 3 giorni non è, dal punto di vista promozionale, una grande strategia. Ok, ok. Adesso facciamo una cosa di questo genere, scegliamo un terzino. Cosa scegliamo, Sergio? La traccia numero 3 è un altro terzino, sì, allora. Sì, il primo uomo sulla neve, che poi è in duetto con Fabio Concato. Sì, ne parliamo dopo dell'esperimento, così c'è una cosa molto divertente da citare dopo, ok? Rock Wave, l'onda del rock. I guanti di lana si inzuppano, è meglio che uso le mani nude, perché fa freddo e mi fa male. Le case nella neve ci annegano, respirano con le antenne orientate sulle stelle. e quale migliore fardello che spingersi su fino in alto. C'è neve, dai, andiamo in castello. Si vede tutto da lì. La grande nevicata mi appartiene, come le forme strane nella neve. Sotto c'è una macchina, ma non si sa il modello. E poi è arrivato il sole sul più bello. E scende le scuole e le chiudono, e in casa non mi va di stare. E dai, giochiamo lungo il viale. E non sono nato per vincere, ma faccio il mio lancio migliore e mi difendo come viene. E mettere il piede per terra, proprio dove nessuno è mai andato, per fare quel passo importante, quello del primo che è passato di lì. La grande nevicata mi appartiene, ed ero il primo uomo sulla neve. E sotto c'è la strada, e sopra c'è il castello. E poi è arrivato il sole sul più bello. La grande nevicata mi appartiene, parte della storia e fa canzone. Bianche sono le cose, anche se non sono bianche, e cambiano le cose, adesso sono grande. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. 23-22 minuti, siamo ancora in compagnia di Beppe Donadio su Blu Radio Veneto, all'interno di Blu Radio Veneto Rock del mercoledì. Maurizio. Sì, parliamo allora di questo pezzo e parliamo di una cosa molto simpatica. Tu eri invidioso perché Samuele Bersani all'epoca aveva scritto un pezzo e aveva inciso un pezzo con Cazzo. Sì. Ma com'è nato questa invidia? Invidia per modo di dire. E come sei arrivato a Fabio Concato? Quello è importante. Io non sono un invidioso di natura. Lo sono ed è invidia... Invidia musicale, quindi non è invidia. Ammirazione, diverso. L'ammirazione è talmente grande a un certo punto che dici, porca miseria, come scrive i testi Bersani, no? Esattamente. Credo che sia molto bravo. Sia venuto a tutti quelli che si cimentano. Certo. E allora ascoltando, eravamo in viaggio, tornavamo da Bari, dove avevamo ascoltato Fabio Concato in un bellissimo concerto in un grande teatro di Bari. E saluto il mio amico Mimmo di Bari. Bene. Che è uno dei fautori di questo disco, nel senso il mio produttore esecutivo. E, nel viaggio di ritorno, ascoltando alcune cose di Bersani, ho scoperto questo duetto. E lì ho provato una sorta di invidia artistica, nel senso... La sua fortuna di aver condiviso una canzone con Fabio Concato. Insomma, mi sono. Il giorno in cui ho formulato una richiesta ufficiale a Fabio Concato, mi sono messo nei panni di Bersani, nel senso, se si può fare. E cioè, ho pensato come deve essersi. Credo che si sia sentito felice di aver. Certo. Di aver ricevuto un apprezzamento e quindi un'autorizzazione, come dicevamo prima, ma senza avvocati. Un'autorizzazione personale. E, c'è stata una conoscenza con Concato ai tempi di un festival locale che si chiama Vulticino Music Festival. Saluto tutti quelli del BMF che è alle porte in questo momento. E io, come tanti altri, ho allungato il mio CD. Uh-huh. Il mio CD l'ha fatto con Dalla Bersani, eh? Dimmi? L'ha fatto con Dalla tempo fa, con... cioè, prima di inizio di carriera ha buttato, esatto, il famoso CD, la famosa cassetta, una volta ci siamo la cassetta a Lucio Dalla, che era in concerto, e poi, ecco, e poi è stato poi chiamato, ecco, la stessa cosa. E allora io credo che, insomma, Concato sia andato via con una trentina di CD di ogni, certo, di tipo, di ogni genere musicale. E poi siamo rimasti in contatto per, così devo dirti che io ho fatto questa richiesta partendo da un presupposto, cioè che avrei voluto ricantare un brano di Concato non tra i più noti, che si chiama Tinti, perché parla di due amici che si incontrano e che giocavano a calcio insieme, quindi aveva per me una logica inserito nell'album Figurine. Però io ho anche proposto questa canzone e con grande soddisfazione, stupore, e non riesco molto spesso a parlarne in termini molto precisi, nel senso è una sensazione molto particolare, è un piccolo riconoscimento al lavoro che uno ha fatto fino a quel punto. E ho ricevuto un ok, e l'ok veniva da cose che poi mi sono state confermate personalmente da lui in più di un'occasione, cioè che la canzone lui la sentiva molto vicina al suo modo di scrivere, e che è una cosa che ha fatto, non è un accordo tra etichette, ecco, ci tengo a specificarlo, è un apprezzamento artistico che è venuto da lui, con una disponibilità e una, insomma, si sa che Concato è un signore, io lo avevo già sentito e quindi ho potuto confermarlo, ho potuto vederlo, insomma, con i miei occhi, come ho potuto anche assistere al suo alla registrazione del pezzo che è stato fatto proprio dalle nostre parti a Brescia. È venuto lui a trovarci e a onorarci della sua presenza, e qui si apre un capitolo su cosa significa cantare e cosa significa la tecnica vocale, che cosa significa invece l'arte del canto, che sono, certo, due cose diverse che convivono in lui, ma la parte di arte del canto lì è sotto gli occhi di tutti, insomma. Certo, quindi, certo, chiarissimo questo. A proposito di questo, io ti voglio chiedere di citare i musicisti che hanno partecipato all'album. Sì, ci sono due musicisti che mi accompagnano dai primi due album, sono Franco Testa al basso e Elio Rivaglia alla batteria, che sono un po' la struttura portante di questi dischi, anche loro nei dischi dei grandi, insomma, quindi una sicurezza da questo punto di vista. Gli album precedenti erano farciti di molti musicisti, questa volta ho pensato di invece così trovare un nucleo che poi mi permettesse di riproporre dal vivo in modo molto più semplice. Gli altri pezzi erano molto ricchi di strumenti e ci trovavamo dal vivo tipo in 11-12, mi sembrava una cosa tanti, allora, anche abbastanza, come si dice, ridondante, e questa volta abbiamo ridotto i termini. C'è Simone Boffa, che è un gran persona, gran chitarrista blues e non, alla chitarra, dicevamo. Ai cori c'è Betty Vittori, tra le altre cose, per cui anche qui una presenza importante. E credo che dimenticherò, ecco, esatto, quindi esatto, il trio d'archi, perché non è un quartetto. Daniela Fuscia, Daniela Savoldi al violoncello e Stefano Zeni al violino, che è venuto qua, ecco, a presentare il suo disco. Esattamente, ecco, venuto, quindi qua, lo conoscete bene, sapete il valore, ne conoscete il valore. Sì, sì, è venuto due volte, vero? Tre volte, ecco, tre volte, certo, quindi con Nicolò Sciar da solo e con Isaia. Onorato, si congeca l'onorato, era ecco. Credo di non dimenticare nessuno. No, ma confermano di che non hai dimenticato nessuno. Hanno sì, confermato, perfetto, quindi perfetto. Vabbè. Ok, 23-28. Sergio, cosa facciamo? Facciamo un pezzo dal vivo? Dal disco. Facciamo, che cos'è il terzino adesso? No? Numero 5. Numero 5 mediano. Allora, abbiamo il centrocampista, cioè il mediano metodista. Fascia no, destra. Una volta era lo stopper. È lo stopper, sì, lo esatto. Stopper. Una volta era lo stopper, adesso è un po' diverso. Okay, okay. Si intitola Caro Diario sul primo canale, tra parentesi, ovviamente. Rock Wave, l'onda del rock. Ah, yeah, yeah, yeah. Amo stare chiuso in casa. casa, puoi dare Miss Italia, gioire quando una non passa, frasi, baci Perugina, i sogni di Verina, il tema della pace nel mondo. Grazie a tutti per il premio, un bacio alla famiglia senza la quale sarei nulla. Studio da grande voglio fare, la moda all'avvocato è quello che mi va. Sponsor possiamo offrirvi Rambo, la replica di Rambo, la gara di chi balla il mambo. Oggi rimpiango i grandi istinti, annaffio fiori finti, un sintomo di chiaro allarme. Spengo se danno il calcio, spengo se danno via col vento, mi riconcilio con il sonno. Oggi rimpiango la censura, i lanci di verdura ed ogni varietà di ortaggi. Sul primo canale c'è un bellissimo film di Natale, con i figli che crescono e mamme che imbiancano. Sul primo canale, tutti insieme a parlare d'amore, quello vero. Amo la neve sulla pelle, detesto le Seychelles, il caldo reca danno alle ascelle. Ecco che inizia il notiziario, ti scrivo caro diario, consigli per l'estate perfetta. Schermi, chilometri di schermi, la scatola dei sogni la vendo l'uomo del banco dei pegni. Mi chiedo dov'è l'arte da mettere da parte, se qui non ce n'è più. Continuiamo lentamente a farci del male, sintonizzati sul primo canale, che la vita, le bella perché sul primo canale, con le donne che fanno sognare, quella cosa lì. Cosa fai? Ti puoi sempre riciclare, ti puoi sempre suicidare sul primo canale, coi bambini che stanno a guardare. L'onda del rock. Allora, 33 minuti dopo le 23, sempre con Beppe Donadio in Rock Wave Live del mercoledì, insieme a me Sergio e dall'altra parte del vetro c'è Maurizio. Maurizio. Sì, mi permetti Beppe di salutare la Nicoletta, la nostra ascoltatrice assidua. Tu puoi salutare. Io voglio salutare la mamma e il papà, direi. Perfetto. Che è d'obbligo. Mi pare giusto che sia. Sia nel ciclismo che nella musica si saluta a casa. Esattamente. Si fa così con la mano anche se non ci vedono però. Beh, Nazional sì, popolare. Ma... Esattamente. anche da sorella, credo. Cioè, vorrei salutare tutta la mia famiglia al completo ed essere tutti assolutamente nazionale. Tutti quelli che mi conoscono. Esatto. Parliamo di questo pezzo, un pezzo molto interessante, un pezzo ironico sullo spettacolo. Ah sì, Caro Diario è una marcetta nostalgica, ecco, sulla televisione. Io ogni tanto me la prendo con la televisione perché sono nato con la televisione, credo, come ecco, quelli della mia generazione hanno credo usufruito di una buona televisione. Non credo che fosse vero niente di quello che abbiamo visto, però almeno aveva un significato di fondo anche lì, come i testi delle canzoni, no? Non è che cambiano la storia. Però una buona televisione è anche lo specchio di un buon popolo, anzi il contrario, un buon popolo è lo specchio di una buona televisione. L'assurdo vuole che quella televisione sulla quale ci addormentavamo, cioè quella svizzera, oggi è una ottima televisione. Io ricordo dei convegni e dei dibattiti sulla televisione svizzera dove non potevi fare altro che cambiare canale, perché era veramente un pacco. E invece parlando con qualcuno che lì ci lavora, insomma, abbiamo avuto modo di constatare come prima di tutto sia cambiata e poi come ci sia una linea editoriale, si potrebbe dire, per cui i reality in Svizzera non ce ne sono, guardano i nostri. Ma il buono, stavo dicendo beati voi, guardano i nostri. Però c'è di buono che moralmente non li producono. Ah. Secondo me è una qualità da questo punto di vista. Mi ricordo Scacciapensieri. Quando ero piccolo, sì. C'era quella risata iniziale. Sì, grandissimo. Sì, bellissimo. E sì, la televisione insomma, ha la sua funzione. Credo che ci sia una correlazione con la formazione culturale, ecco, anche a livelli molto... è cultura televisiva, lo è stata secondo me quella che abbiamo visto noi, forse oggi un po' di meno, almeno per quello che riguarda i programmi cosiddetti nazional popolari. Alcuni secondo me sono profondamente diseducativi, ma senza moralismo, proprio come meccanismo e come struttura, come costruzione. E vabbè, insomma, ce li teniamo, ci si può cantare sopra, insomma. Certamente, e anche dal punto di vista musicale è piuttosto ironico l'arrangiamento, volutamente ironico. Sì. Non è ironico per niente, anche molto importante l'appuntamento del 24 novembre. Adesso lo citiamo, visto che il nostro manager mi ha mandato i volantini. Beh, qualche anno fa poteva essere ironico, qualche anno poteva essere ironico. Un concerto. Lo puoi citare, vai. Il 24 di novembre vi aspetto a Brescia, perché tanto non è tantissimo, insomma, un'oretta e mezza, e al Teatro CTM di Rezzato, e io ho questo concerto, come dice la locandina, in concerto con Fabio Concato, che ci onora della sua presenza. Sono due set musicali distinti, e poi ci saranno un paio di interventi in cui incroceremo a duello la nostra voce, facendo dei numeri di soul particolari. Come si organizza un concerto di Beppe Donadio? Come lo organizzi musicalmente? Che pezzi? Cioè, hai una scaletta già preordinata o le cambi ogni volta? C'è una scaletta di fondo, diciamo una struttura di fondo che seguiamo. In linea di massima io riempio due ore di musica, che secondo me già sono tante, però mi accorgo che non riesco a concludere le mie cose entro l'ora e 40. E quindi sono due ore di canzoni, non sono, insomma, prendo a prestito delle parole di gente più importante di me, che dice che seduti al pianoforte non è che puoi fare i numeri, quindi al massimo puoi cantare, e quindi così sono canzoni per due ore. Io ho scelto da molto tempo di suonare in teatro prevalentemente, non tanto per snobismo, ma semplicemente perché è uno dei pochi posti in cui puoi suonare e la gente ti può ascoltare, quindi non girano i bicchieri, non cadono le forchette, non viene lì uno a chiederti se puoi fare un pezzo dei Nirvana e tu gli dici: ma secondo te io al pianoforte posso farti un pezzo dei Nirvana? Mi è successo a Pavia. Ah. E tutte queste, diciamo, disavventure, come quello che viene a suonarti i tasti neri perché è una figata, tutte queste disavventure musicali sono evitate, perché bisogna salire sul palco e non è facile salire, soprattutto i teatri molto alti non è così semplice. Perfetto, è chiaro, questa è una cosa da dire. I vantaggi ci sono. Appunto, c'è poco da fare. Ok, suoniamo un altro pezzo, Beppe, cosa? Sì, io avevo già parlato di televisione, in una canzone che si chiama Santi Navigatori, che magari ti faccio sentire. Ok. Filo. Ci sono posti al mondo che se li mangia il tempo, e non ho mai viaggiato e non ho mai voluto, lungo l'Italica, bella penisola che dalla testa ai piedi, bella che non ci credi, santi e navigatori, e poeti e marinai, e case col bagno fuori, bambini e uomini in mezzo ai Why? Ho messo una vita al mondo in meno di un secondo. Ci chiede sempre perché ed io gli spiego cos'è quest'asta pubblica di donne in vendita. Che cosa fa papà quella signora là? Segreti in mezzo al mare e che cambiano colore come coralli al sole a un metro di profondità. E dalle sponde dell'oceano Atlantico fino alle pieghe del profondo sud. E adesso siamo noi come l'America. E c'è chi torna e chi non torna più. Garibaldi fu ferito perché non guardava mai alle spalle. E se non stai con gli occhi aperti ti ritrovi presto o tardi a valle. Santi e navigatori, poeti e marinai, case col bagno fuori, bambini e uomini. La vita è tanto bella alla televisione e pizza e tarantella. Il pubblico ha sempre ragione o alcune regole per sopravvivere. E un giorno capirai, quel giorno tu sarai il mio futuro in un paese solido dove il parametro sia la virtù. Perché per oggi è una discesa libera e c'è chi scende e chi non torna su. Garibaldi fu ferito perché non guardava mai alle spalle. E se non stai con gli occhi aperti e ti ritrovi presto o tardi a valle. Santi e navigatori, poeti e marinai, case col bagno fuori, bambini e uomini. Santi e navigatori, poeti e marinai, anche per oggi al sole. E il sole siamo noi. Ci sono vite al mondo che durano un secondo e non si sa perché e non si sa cos'è. Uomini che non sai se sono come noi. Ci sono e non li senti, devi stare attento. Vai. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Siamo a buon punto, Maurizio, sì, di questo live. Ci siamo. Sentito Sergio, ha fatto una versione decisamente blues di questo pezzo. Sì. Molto blues. Non avevi la chitarra, ma potevi avere anche la chitarra, è la stessa cosa. Ecco. La chitarra, il piano sostituito la chitarra in questo momento, con il blues. Come in Keane. Esatto. come in Nirvana. È come in Nirvana. Pianoforte. Esattamente. Bene, una cosa che ti volevo chiedere è questa. Dimmi. Se uno vuole acquistare i tuoi dischi, ci puoi citare il sito, come facciamo a prendere a conquistare i dischi che hai fatto e quello nuovo? Credo che la grande forza odierna della rete, a parte aver raso al suolo un mercato discografico, è che comunque da un'altra parte ti consente di distribuire la tua musica. E siccome è complesso ottenere la distribuzione di un disco, non lo so come mai. E, per cui ho deciso di nemmeno chiedere se me lo distribuiscono, per cui su iTunes si scaricano, si comprano a un prezzo secondo me dignitosissimo, lì si hanno con la velocità della luce, insomma, o comunque dei dati telefonici, per cui niente di meglio che andare su iTunes e scaricarli, o comunque su altri stores digitali. Ci sono situazioni così di vendita di distributori digitali come Believe, che fa un grandissimo servizio e lo fa molto bene senza diciamo aggravare di, che so, costi annui, ecco, semplicemente con percentuali sul download. C'è, questa è la grande forza. Il CD fisico si trova, lo si può ordinare sul sito, lo si trova ai concerti. Io sono, prima che musicista, sono stato un collezionista di dischi e ho rovinato stipendi da questo punto di vista. E sono ancora cioè ci tengo al CD fisico, no? C'è il librettino con i testi, secondo me non si può prescindere, però siccome i tempi cambiano e io invecchio, il digitale, il download digitale fa la sua funzione. Poi vi danno anche la figurina della copertina, per cui qualcosa c'è ancora. Benissimo, a proposito di questo, nella storica trasmissione Hit Parade della RAI, adesso si chiama Hit Parade con un'altra sigla, però è sempre quella, e cioè, ci sono anche classifiche dei dischi digitali adesso, ecco. Recentemente, 2 settimane fa, quindi è stata una barriera, è stata abbattuta praticamente, quindi è una cosa molto interessante. Direi di sì, è un supporto, cioè, è strano parlare di queste cose perché se da una parte la rete ha mandato all'aria un mercato, un intero mercato, ma penso, insomma, il paragone è molto semplice, io vendo torte e apro un negozio che le regala, io posso chiudere. Certo. Per cui la rete che manda all'aria un mercato, la causa forse non è solo la rete, però secondo me oggi lo è, e dall'altra parte però ti mette a disposizione un mercato che nessuno poteva nemmeno pensare di avere prima, cioè io potrei vendere, non dico in Svizzera, ma dei dischi anche, che ne so, nel Giappone, ecco, fanno segno, cioè. Non è cosa da poco, per cui insomma della serie delle piccole cose facciamoci andare bene quello che c'è, che è già tanto. Certamente, cosa dici Sergio, un pezzo da disco lo mettiamo su? Sì. La 8 o la 9? Perché scrittura da dottore. Guarda, interessante. Quello col Mago Forest. La 9. La 9. Il centro avanti. Così parliamo un momento poi del Mago Forest. Okay. Andiamo. Rockway, l'onda del rock. Sì, buongiorno, mi scusi. Non mi funziona bene il tappetino del mouse. Buongiorno, mi scusi. Quando faccio taglia e incolla, ma non posso fare prima incolla e poi taglia? Per stampare in rosso è obbligatorio avere la stampante a colori? Ancora non ci credo che sei qui sotto casa. Ti ho vista nella foto postata sul mio blog. È scomodo il poeta che ha ucciso l'uomo ragno. Ti ho scritto che sei un mito, ma come fai? Ma chi sarai per scrivere di me? Ci ho messo delle ore, allora ho scaricato le frasi dell'amore, ma non ho calcolato l'ipotesi che esisti, e adesso che mi suoni non so che cosa dirti. Ti dico che non posso, ho un guasto sul PC, mi devo alzare presto, vorrei aver detto sì, ma no. Domani devo lavorare, non chiedermi di rimanere. So bene che tu vuoi salire su da me, ma è tutta colpa della Microsoft. Se io ti ho persa per un beat, io vittima decisa di un difettoso art. Mi scusi, mi dice perché quando io digito la password il mio computer continua a scrivermi puttini puttini sul server dei pensieri. Buongiorno, il mio computer non funziona. Io mi dice JPEG. Che computer ha? Ne ho uno bianco. Splendida la vita. E poi vendete sotto mouse per mouse. Che vivo qui nel web, ma non ho calcolato la fase successiva. Non tanto che sei bella, ma quanto che sei viva. Io dico è tutto fermo, lei dice allora ciao, sparisce giù nel buio e più non la vedrò mai più. Domani devo lavorare, non chiedermi di rimanere. Salire su da me, ma è tutta colpa della Microsoft. Se io stasera sono qui, io vittima decisa di un difettoso artista. Stasera sono qui, io vittima decisa di un difettoso hard disk, seduto in una stanza ad installare un key. Sì, qual è il problema? Buongiorno. Ma io con il mouse ottico posso fare una radiografia? Buongiorno, volevo fare un aggiornamento del sistema operativo. Sì, che macchina ha? Una pazza, perché? Buongiorno, il mio computer continua a dirmi che non riesce a vedere la stampante. Allora ho preso la stampante, l'ho messa proprio di fronte al monitor, ma continua a dirmi non vedo la stampante. Che devo fare? Non si preoccupi, le do il numero dell'assistenza. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Quella della stampante in bianco e nero, se stampa a colori, vi dice anche a colori, vi dicendo, no, anche in bianco e nero, è successa dei miei amici. Ecco, che vendono quelle cose. Scusi, ma stampa anche in bianco e nero. Ce n'erano altre, ma sono rimaste fuori. Adesso non ricordo. Insomma, c'era, posso, come faccio a formattare la tastiera? Era una di queste, poi ce n'era un altro paio, insomma. Posso come? Rifarti però, sì, se vuoi, dimmi. La parte finale del pezzo, sì, dai, quella della centralinista. Sì, sì. Aspetta. Te la faccio uguale, guarda. Sì, non si preoccupi, le do il numero dell'assistenza. Uguale, perfetto. Era lei. La rossa con un peperone. Allora, ci parli un momento, Beppe, di questo incontro col Mago Forest. Divertente, è stato... personaggio molto gentile, il produttore esecutivo dell'album è un mago, nel tempo libero, insomma, non esercita da mago, ma lo è. Michele Foresta è un amico di vecchia data, e è stata sua l'idea di proporre a Foresta questa voce, questo fuoricampo, e insomma lui lo ha fatto nel migliore dei modi, insomma. Siamo andati, come dice appunto Mimo, gli abbiamo preso la voce a Milano, e portando le nostre attrezzature, lui con molta attenzione ha selezionato queste battute, aggiungendo di suo: come mai quando inserisco la password mi esce fuori puntini. E così, insomma, ci siamo divertiti, è stato un bel momento. È una persona di grande ironia e anche di grande cortesia, ecco, posso dirlo. Questa è una cosa significativa al 100%, dalla Jalapas Band in su, praticamente. Sì, lui ha fatto tante cose interessanti, sempre con la Jalapas Band, tantissime con la Jalapas. Sì. Credo che abbia in qualche modo creato una forma di personaggio televisivo assolutamente originale, mai visto prima, davvero. Mm-hmm. Quindi praticamente hai improvvisato su queste cose quando tu dici sul pezzo? O beh, quasi. Alcune frasi vengono da Antonio Capra, che è un regista, ma è anche un tecnico di computer. Per cui molte sono esperienze reali. Il mouse e il sottomouse è una mia esperienza reale, e alcune sono esperienze reali appunto di Michele Foresta. Abbiamo unito le cose che ci facevano più ridere, almeno a noi. E quindi sono storie realmente accadute, quindi qualcuno realmente chiede se, mettendo davanti la stampante al monitor, se riesce a fargliela vedere, ecco, quindi mi dicono almeno che sono cose reali, ecco. E dal vivo, se non c'è il Mago Forest, come lo presentate questo pezzo? Il Mago Forest ha concesso una sua presenza digitale, perfetto, aleggia durante la canzone, per cui lo mandiamo dalla regia, come si dice in questi termini. Benissimo. E tu hai detto che l'ultimo pezzo chiude il concerto, hai citato l'ultimo pezzo che chiude il concerto. Il pezzo che chiude il concerto? Di solito, che secondo me doveva aprire il concerto, a mio parere. Sì, festa. Esattamente. Festa. Il primo pezzo che apre il concerto qual è di solito? Il primo pezzo che apre il concerto generalmente è Figurine. È Figurine, per un discorso di continuità. Così, diciamo che non è l'esordio del 16 di giugno, ha avuto anche un compendio di emotivo non indifferente, perché mentre io raccontavo la mia storia, mentre insomma tentavo di essere salvato da questo pestaggio, di fronte a me seduto in sala c'era quello che con me è riuscito a salvarsi dal pestaggio. Quindi è stata una sorta di amarcord, insomma, poteva finire in lacrime se non mi controllavo. Citiamo un momento il libro che sì. Abbiamo citato un momento, citiamo un po' più, sì, più largamente il libro che è uscito contemporaneamente al disco. Sì, il libro è edito da Zona Editrice di Arezzo. Il libro raccoglie, la canzone in fondo è la sintesi del libro, certo, ma più o meno interagiscono. Il libro copre un periodo tra il 78 e l'82, l'occasione di partenza sono 10.000 lire in figurine regalatemi da una zia, in barba alle regole mie di famiglia, insomma, di tenere i soldi, fare attenzione a non buttarli via. E questa cosa per me ha avuto un piccolo significato, insomma, è stato forse il momento più grande trasgressione della mia infanzia, credo dopo il concerto dei Rockets, ecco, no? Appunto. Che tornano questa sera, è molto... e niente, insomma, è un racconto di questo scampato pestaggio, e da lì è l'occasione per ricordare eroi giovanili, eroi dello sport, eroi della musica, e anche eroi locali, quindi amici e conoscenti e parti della mia città. E tu hai citato anche Robby Bettega. L'ho citato perché... Perché? Perché Roberto Bettega, il famoso gol con la Finlandia. Quello in tuffo? Esattamente. Mamma mia, che spettacolo. Ecco. Noi juventini. c'è stato un attimo di una parte della mia storia dove io appunto incollavo lo scotch sulla maglia e l'11 veniva molto facile. Sì, è quell'epoca che ti dicevo per cui gli eroi dello sport sono assolutamente puri e casti come un santo. Per cui è tutto perfetto, no? in quella parte di vita lì, quindi non è importante se Paolo Rossi avesse ricevuto dei soldi per passare delle partite, però l'anno dopo era ai mondiali e per me in quell'anno lì era, insomma, chi se ne frega se aveva passato, o più che altro il concetto di aver passato una partita non era contemplato nel range delle mie sensazioni emotive, per cui Paolo Rossi era assolutamente Paolo Rossi e basta. Gli errori sono assolutamente umani e quindi non è un discorso moralistico, è un discorso proprio di eroi dello sport, per cui quando Bettega andava sotto la curva e alzava le mani era un'immagine, che ne so, un'immaginetta così, ecco, San Bobby gol da Torino, esattamente, concetto. E abbiamo finito, Sergio, cosa dici? Purtroppo. Abbiamo finito, sì, 23:56, ci siamo, sì. Maurizio, domani chi... Domani abbiamo... Dario Petucco. Esatto, sì. Musicista molto bravo, molto valido. Di Marostica. Della nostra zona. Verrà, sarà la conduzione del programma, sarà di Agostino, io sarò ospite del programma, come sempre. Ma insomma, ospite che sa molte cose, comunque. No, io devo solo ringraziare Beppe che è venuto qua da Brescia, che ha fatto un concerto meraviglioso. Abbiamo parlato della tua musica, abbiamo capito da dove proviene la tua musica, questo è importante. Ricitiamo il discorso importantissimo del 24. Sì, io cito il concerto e dopo vi ringrazio come si deve. Il 24 di novembre a Rezzato, in provincia di Brescia, al Teatro CTM. Sul sito www.beppedonario.com ci sono tutti i riferimenti su come accaparrarsi un biglietto, ecco, in modo legale. Quindi disco, tramite la rete ci diamo anche il disco figurine, chiaramente il disco figurine, e poi chi fosse interessato ci sono i due dischi precedenti, ci sono Merendine e Udini, anche quelli disponibili, ricordo la rete che li ospita e li potete avere a casa nel giro di un attimo, come la pizza a domicilio più o meno. Ok, abbiamo deciso io e Sergio con sì. Te di far sentire due pezzi, ci salutiamo con questi due pezzi. Sì, mi sarebbe piaciuto venire e cantare una canzone dedicata a Padova, ma non l'ho ancora scritta, per cui ve ne faccio sentire una dedicata a Brescia, che è la sorellina di Via Milano Blues, di Fab Four Blues, che si chiama Via Milano Blues. Via Milano è una via di Brescia molto trafficata. Ok, allora ci salutiamo, ti aspettiamo alla prossima occasione qui a Blu Radio Veneto. Grazie a tutti, questo è uno spazio preziosissimo per fare musica dal vivo, grazie a voi. Grazie a te. La mia auto è come la mia casa, ma la mia casa ha quattro piani in più. Vivo qui tra luci d'emergenza e le SUV targate Genova. Le città dipende dagli orari, sono tutte uguali, quasi come i canoni del blues. Oh, come i giri del blues. Il volante sulle 8:30, se lo usassi come dentro ai film, mi vedresti andare zigzagando e sarei morto già di lunedì. I tassisti di donne con la pancia come in sala parto, quasi come fossero papà. Wow, wow, wow. Ed ecco perché se la macchina infallibile ne rendere possibile suonare la mia musica in mezzo alla città, è vero anche che se il peggio è sempre vigile, il giallo è discutibile, ma il sedile è regolabile e il tempo non mi passa più. Via Milano, la sento la tua assenza, torna più puntuale di un tassi. Ed anche se combatto lo sbadiglio, mi farò un isolato in più. Né prima che la musica finisca, io ci avrò girato intorno e amato una canzone di più. Wow, wow, wow, ed ecco perché se il peggio è imprevedibile, tornare a casa subito è quasi come leggere i fondi del caffè. È vero anche che se il giallo è discutibile, il rosso non ammette mai la minima eccezione al tempo che non passa più. Dita dentro al naso, chiuso qui a fare pulizia, e penso a te e penso alla stradale per colpa di un coso digitale. È giallo pieno, è giallo in divenire, la vita è sempre uguale, quasi come i giri del Blues. Yeah. Questa è la Via Milano Blues. Chiudo questa serata con una canzone che è in zona e nei tempi molto vicina, nel senso che è la storia di un architetto, è del peggiore architetto che la storia ha prodotto, che è quello che ha messo in piedi un muro, insomma, dalle sembianze abbastanza cupe e tetre, cioè il muro di Berlino, che per fortuna però è stato tirato giù. Adesso trovo il testo, perché come ti ho detto all'inizio non vivo senza il mio quaderno dei testi, ma questa me la ricordo. Si chiama Maestrale. Come marinai che si svegliano, l'alba aspetterò. Ho visto andare uomini da est, e le volontà non si piegano, e i muri vanno giù. Teneri del pane cadono. È un'idea che sale, sale con come le parole chiuse a chiave. È un'idea che sale, sale, saliva come il sole, saliva che mi sento libero. Mi distaccherò come un petalo e sarò un sì o un no nel gioco degli amori effimeri. Mi distaccherò fino a spendere tutto quello che ho testando le paure e i limiti. È un'idea che sale, sale con la forza buona di un maestrale. È un'idea che sale, sale, saliva come il sole, saliva come il sole. Quando avremo parole ed un futuro che vuole libertà. Rock Wave, l'onda del rock.